poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso casa. Chiamare i miei, che bella sei, che belle fai, le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi. Buongiorno a voi, ben svegliati, avete aperto gli occhioni, eccoli lì, allora pronti che inizia una nuova giornata, come sempre la iniziamo insieme, io di questo sono molto contenta. Se avete aperto gli occhi, ma fate un po' fatica oggi aprirli, insomma vi ha dato quella strana sensazione sgradevole, l'ho provata proprio la scorsa settimana, di occhio appiccicato. State con me perché insieme a noi a prendere il primo caffè della giornata il dottor Lucio Buratto. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ben svegliato anche a lei. Il dottor Buratto è direttore del Centro Oftalmico Ambrosiano. E sì, perché a volte ci vuole proprio un oculista al mattino. La luce ci dà fastidio, l'occhio appiccicato, ci sentiamo la sabbia negli occhi. Dottore, è così, il mattino a volte l'inizio della mattina può essere faticoso, sembra anche quasi di non vedere bene. È vero perché durante il giorno le nostre lacrime fanno un bel lavoro, bagnano l'occhio e li consentono di vedere bene. Durante la notte le lacrime sospendono quasi la loro attività, anche perché l'occhio non ne ha bisogno, perché essendo chiuso, con le palpebre chiuse, non ha bisogno la lacrima di lavorare sull'occhio. Però quando uno si sveglia al mattino, l'occhio in quel momento è secco. È secco, per cui in primo momento fa un po' fatica ad aprirsi, parlo delle palpebre naturalmente, fanno fatica ad aprirsi e quindi a lubrificare. Bisogna, diciamo, come dire, iniziare la giornata lubrificando un po' bene la cornea, le strutture dell'occhio, perché l'occhio cominci a vedere bene. Un po' come le articolazioni che sono a volte arrugginite, ci sentiamo l'occhio che fa un po' fatica, è un po' asciutto, un po' secco. Ma questo può capitare a tutte le età o è solo un problema degli over? Diciamo metto che, over così, la butto over. Lì perché al mattino, ecco, ci sentiamo tutti over. Diciamo che più si va avanti negli anni, più il problema è frequente. Diciamo che sono più colpite le persone più avanti negli anni, le persone che sono, per la donna in particolare, la menopausa gioca male in questa cosa. Gioca male chi porta le lenti a contatto. Chi sta anche forse tanto davanti al computer. Chi sta tanto davanti al computer. Se ieri sera avete finito, ecco, tardi, siete stati davanti, avete risposto alle mail o avete fatto, no, delle vostre cose, probabilmente i vostri occhi stamattina si lamentano, ma noi come sempre obiettivo risveglio troviamo la soluzione, dottor Buratto, che può essere molto semplice, una lacrima. Una lacrima artificiale è la cosa migliore, se proprio non ce l'avete, al limite sciacquarsi gli occhi con un po' di acqua pulita, ovviamente. E bisogna stare un po' attenti anche alle creme, perché molte persone mettono delle creme sul viso prima di andare a dormire e poi magari durante il sonno si strofinano, un po' di crema entra nell'occhio, irrita l'occhio e la mattina l'occhio fa un po' più fatica anche per quello. Ma io volevo chiederle anche un aiuto per chi, mi è capitato come dicevo la scorsa settimana, fa fatica ad aprire l'occhio perché l'occhio è come appiccicato. Le devo dire che mi sono struccata, io mi strucco perché sento tutti gli oculisti che dicono che noi donne ci strucchiamo male, quindi mi strucco e rappiccicato. Allora io ho preso un batuffolino di cotone e me l'ho messo a bagno nell'acqua tiepida, però mi ricordavo che ci voleva anche la camomilla, ma la non camomilla l'avevo, la malva, ecco, benissimo. Ma funziona, funziona, no? funziona. Per uno dei consigli che è molto semplice, uno dei consigli più semplici che diamo alle persone che soffrono di occhio secco è proprio quello di fare degli impacchi alla sera dopo una giornata lavorativa lunga, eccetera eccetera, con un po' di un cotone, diciamo, non deve essere bollente ma non deve essere neanche freddo, comunque una temperatura accettabile, calda comunque, e imbevuto di camomilla o di malva, diciamo, si fa la solita camomilla, si fa la solita per malva. Non fare l'occhio alla coca. Ma senta, invece non potrebbe essere la congiuntivite, perché adesso faccio un po' la dottor Balanzone, perché quando l'occhio, anche nei nostri bambini, a volte i bambini hanno quella specie di secrezione, è congiuntivite? No, non è l'occhio congiuntivite. È rosso, brucia, stiamo tranquilli? l'occhio un po' irritato magari, quello perché sì, ma senza che sia una congiuntivite vuol dire che c'è un qualche cosa di infettivo che ha colpito l'occhio o le palpebre o comunque gli annessi. Invece qui sono solo problemi, diciamo, di riduzione lacrimale, di affaticamento. Dai, come a dire che una lacrima ci salverà. Una lacrima sul viso e una lacrima sull'occhio. Ma dottor Buratto, ci dà due dritte proprio da esperto, ma molto semplici, che ci possiamo ricordare per non arrivare stasera con gli occhi che uno se li vorrebbe mettere in tasca, tanto è stanco? Ma il segreto sta sempre nel sottoporre la vista a un lavoro continuativo, ma anche saperlo riposare qualche momento ogni tanto. Lei come fa? Che gli occhi, lei è un chirurgo e quindi gli occhi li usa parecchi, e dell'occhio sa tutto, sa tutti i segreti. Poco. No, devo dire molti. Ma cosa fa? Si riposa ogni tanto, fa il palming? Quello... Sì, io chiudo gli occhi ogni tanto, li rilasso, li apro, li chiudo più di una volta, faccio un massaggino, magari metto una goccia di lacrime artificiali, oppure sto qualche secondo con gli occhi chiusi, per esempio, e li lascio riposare un momentino. Allora facciamo come lui. Grazie per il caffè, grazie per i consigli. La penseremo oggi mentre ammiccheremo davanti al nostro PC, perché anche questo ci dite di fare. Bisogna tenere le stanze un po' umide. Adesso le case sono asciutte, asciuttissime, perché una volta si lasciava che le case avessero delle fessure alle finestre. Bravo, com'era bello, non c'è più vero? Adesso tutta l'aria è chiusa dentro, non c'è più umidità negli uffici, nelle case. Bisogna bere, bere, bere, bere, bagnare, bagnare, bagnare. Lacrime, lacrime, lacrime. Lacrime, lacrime. Grazie e buona giornata. Grazie. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati. Dai, chiudiamoli occhi ancora un attimo, ma senza addormentarci. Parlo dei nostri occhioni, dato che poi dovremmo tenerli ben aperti durante tutto il giorno. Se ci facciamo trovare con gli occhi chiusi o semichiusi, siamo già nella posizione, nella condizione ideale per sentire che cosa ci racconta il nostro prossimo amico del mattino, che forse già conoscete, ma che nel caso vi presento per bene. È Daniele Belloni, è un insegnante di yoga e meditazione allo spazio Shanti di Milano. Ben svegliato e buongiorno Daniele. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli svegliati d'Italia che ci ascoltano. Allora, chi a casa ci segua, chi è già in macchina, mi raccomando, si limiti ad ascoltare, così se poi si ricorda, quando avrà magari un attimo di tempo, potrà ripetere questo semplice esercizio che ho chiesto a Daniele di pensare per noi e che ci verrà in aiuto quando la stanchezza, quella fisica o la stanchezza mentale della giornata inizieranno a farsi sentire. Insomma, è quella boccata di ossigeno e di energia di cui spesso sentiamo il bisogno, ma che altrettanto spesso dobbiamo silenziare. Bene, cara Nicoletta, oggi vorrei proporre a tutti i nostri amici una respirazione fondamentale per lo yoga, poi aggiungeremo anche, diciamo, una ciliegina eventuale per chi lo desiderasse, che è la respirazione diaframmatica. La respirazione diaframmatica è estremamente importante perché è al tempo stesso estremamente riequilibrante per il sistema nervoso, ricarica, ha una funzione di sblocco a livello emozionale perché muove una parte del corpo, che è l'area dell'ombelico, dello stomaco grosso modo, che spesso durante il corso della giornata tende a bloccarsi per tensioni o per preoccupazioni o per piccole grandi ansie. Certo. E questo blocco, Nicoletta, per noi che pratichiamo yoga è evidente da osservare come un blocco alla stessa energia, non è solo un blocco emotivo, noi siamo composti di corpo, mente, respiro e energia, e quindi se blocchiamo uno di questi elementi blocchiamo anche tutti gli altri. Allora sblocchiamoli, per carità. Sblocchiamoli, e per sbloccare tutti questi elementi semplicemente invito i nostri amici all'ascolto, se possono farlo, altrimenti possono immaginare e memorizzare, poi eseguire quando saranno liberi, di posizionare la mano destra a livello dello stomaco con il mignolo che si appoggia all'ombelico, grosso modo, e il pollice allo sterno, alla base della cassa toracica. Sì. Eccola qua. E quella mano con il respiro dovrebbe muoversi, quando inspiriamo dovrebbe sollevarsi un poco perché la parete addominale si espande, e quando espiriamo dovrebbe rientrare un po' con la mano assieme alla parete addominale che rientra verso la colonna. Sì. Quindi si tratta di eseguire una sorta di movimento a onda che si espande e rientra con ogni respiro. Se vogliamo diciamo aggiungere quella ciliegina di cui parlavo all'inizio, che sarebbe questa tecnica chiamata Kapalabhati, che significa niente poco di meno che cranio lucente, e quindi ci parla fantastico. Di bellissimo. Kapalabhati, cioè capa sì, fresca sarebbe anche. Esatto, ci parla di lucidità, ci parla di presenza, ci parla di energia mentale. Bene, semplicissimo, durante l'espirazione a bocca chiusa, come immaginate come se doveste, non so, dare un colpo di tosse o soffiarvi il naso. Una cosa così. Sì. Ed inspirando rilasciate la parete addominale che si espande delicatamente, tranquillamente. Poi se desiderate di nuovo un colpo di addominali all'interno la parete, ed inspirando rilasciate tranquillamente, si espande un poco dall'ombelico allo stesso. Quindi create una variazione ritmica nel vostro respiro diaframmatico che vi consente, siccome questa è una respirazione purificante e proprio come dice il nome crea lucidità, perché v'è anche una sorta di automassaggio a livello dei liquidi cerebrospinali, non a caso si chiama cranio lucente, contribuirà questa respirazione a darvi quella lucidità e quell'energia che vi servirà nel corso della giornata. Fronte rilassata, ombelico felice. Sì, e Nicoletta posso aggiungere una cosa, se ho ancora tempo? Certo. Un consiglio mentale, con ogni inspirazione, poiché come abbiamo detto mente, respiro, corpo, sono una realtà unica, con l'inspirazione immaginate di prendere tutta l'energia che potete e con il vostro respiro, ed espirando espellete come da ogni poro del corpo ogni residua tensione, come un fumo grigio che vi abbandona. Fantastico. Vado, respiro. Vai, è semplice, efficace e assolutamente garantita come tecnica. Grazie a Daniele Belloni, il nostro insegnante di yoga e di meditazione dello spazio Shanti di Milano. Buona giornata, Kapalabhati. Grazie. Allora, grazie a voi a che tutti. Non vuol dire, che non vuol dire capa fresca, come dico io, ma cranio lucente. Cranio lucente, bellissimo. Grazie, arrivederci, buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Beh, mi sembra molto semplice come respirare, come bere un bicchiere d'acqua, se non c'è la tosse però che lo manda di traverso. Mamma mia, questa è stata un'influenza brutta e a molti ha lasciato in regalo questa tossetta fastidiosa che sembra affezionata. Naturalmente se il problema persiste bisogna consultare il medico, ma all'inizio che cosa facciamo? Proviamo con i rimedi naturali. Il medico però è in linea con noi, è il nostro amico Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Buongiorno dottor Speciani, buon risveglio. Ma buongiorno, buon risveglio a tutti. Allora, un po' di tosse ce l'ha lasciata questa influenza? Direi che siamo perfettamente in tema. La tosse è importante anche dal punto di vista medico, se uno ha problemi di cuore, di allergia, di reflusso, deve sentire il suo medico. Però diciamo che questa tossetta che abbiamo, abbiamo una serie di rimedi naturali utili. Noi proviamo e lei ci dirà se facciamo bene o possiamo aggiungere o togliere qualche cosa. Il grande classico, il miele, acqua e miele, latte e miele. Meraviglia, e io da vecchio alpino dico anche ogni tanto biscotto con un goccio di alcol, quindi va bene. Sì? Perché? Perché il miele ha delle sostanze ottime antiossidanti, ha dentro dei salicilati, quindi funziona anche come antinfiammatorio, quindi va benissimo, il miele, miele vince, ok, questo ce la diamo per buono. La seconda opzione, tisana, è la tisana che può essere di liquirizia oppure di timo. O di erisimo, dai, erisimo. L'erba dei cantanti. L'erba dei cantanti, infatti direi che lavora sulla laringite, sulla tracheite, su tutte queste forme, e io devo dire che anche un buon mischietto non sta male, quindi un po' di timo, un po' di erisimo facendosene un infuso, a quel punto magari zuccherà con un goccio di miele e abbiamo ottenuto quello che ci serve, che è quello che va bene. La liquirizia va pure benissimo perché ha una bella azione di risoluzione un po' del catarro, del fastidio, e che però se uno ha ipertensione eccetera è meglio non usare. E poi immancabilmente la curcuma. La curcuma è la star del momento insieme allo zenzero, che curi anche la tosse, ma dottor Speciani. Assolutamente sì, questo tutto pure. Io sono un amante della curcuma, quindi un infuso, ma purtroppo ci sono dei tè già preparati che sono a base di curcuma e zenzero, a cui aggiungerei un po' di menta, e sono tra anche questi un po' mielati e sono fantastici. Devo dire che in tutte le ricette tradizionali c'è l'acqua, perché se noi riusciamo a idratarci bene, davvero facciamo del bene alla nostra tosse e la miglioriamo. Amo molto anche gli oli essenziali, o comunque eucalipto, la melaleuca, l'olio di timo, che usati con altri oli, eccetera, anche per massaggi sul petto, fanno anche bene alla vita di coppia. Dottor Speciani, grazie per questo buon inizio di mattina, buona giornata a lei, ci sentiamo presto. A presto allora. È tempo di salutarci, vi lascio e adesso che siete svegli vi ricordo che ci possiamo sentire a mezzogiorno con Obiettivo Salute Notizie e poi vederci con il live di Obiettivo Salute. Intanto buona giornata, buon risveglio da Nicoletta.